Germania e Svizzera hanno firmato ieri a Berna un accordo per riportare in patria i capitali dei cittadini tedeschi spostati illegalmente nelle banche elvetiche negli ultimi 10 anni. Avete già sentito questa notizia? Bravi, infatti l'accordo c'era già stato, ma ora l'intesa viene corretta al rialzo. Ora gli evasori che vogliono riportare in terra tedesca i soldi pagheranno una tassa sui capitali scudati del 41% rispetto al 19-34% dell'intesa precedente. Secondo stime recenti, in Svizzera ci sarebbero tra 130 e 180 miliardi di euro di proprietà tedesca. E quindi la Merkel incasserebbe parecchio. Ma perché l'Italia non fa un accordo simile? Si tratterebbe, si calcola, di almeno 14 miliardi di euro di pronta cassa. Il perché Monti l'ha spiegato più volte. Ancora ai primi di marzo ha detto che accordi del genere sono a rischio di procedura comunitaria. Curioso che il paese che ha inventato lo scudo fiscale con una tassa di appena il 5% sui capitali scudati si faccia scrupoli di questo genere di fronte all'opportunità di riportare in patria capitali tassati fino al 40%. Anche perché, ad esempio, sui frontalieri, in occasione della sua visita al centro comune di ricerca di Ispra, il presidente della Commissione europea Barroso, il 16 marzo, ha detto che si tratta di una questione fra Italia e Svizzera e questi due paesi devono stringere accordi bilaterali. In ogni caso, intanto, la Germania va avanti e incassa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.